Mari, che perché non c'è? E per noi non pago una farla. Come? Ho capito. Ah, come ti metti a casa se in giro? In giro? No, è campagna. Con pugna io. Cosa ne porti in giro? Ammalarmi ancora di più? No, no, no. Niente da fare, a casa calduccio, in campagna calduccio. Ah, in campagna io? E lui? In campagna sta sempre bene. Cado per un gaggio, specialmente il ciuberiolo. Beh, c'ha la cucina a legno, a legna, vedi tu, a scalda. A che male, uè? Che te? Aria sa! C'è la cucina a legna che fa... che cucina, poi c'è il forno, tu apri lo sportello del forno e c'è un calore che è la fine del mondo. Scalda che è una bellezza, guarda, anche troppo. Lo credo bene. Lo so che è così. Già ci sono stato quando c'era una roba del genere, sicché si sta veramente bene. Meglio anche andato a suocera io. E lui? E allora hai mangiato bene oggi? Sì, una badetta dentro all'astra. Ho capito. Una badetta dentro all'astra. E vabbè. Anche quello può succedere. Sì, ecco. Fatta asciutta, dopo di sapere, arrosto, frutta, capito? Ah, ma ieri sera è uscito, sì? No, a casa mi sono rimasto, non stavo bene a Gio Maria. Ma oggi come ti senti? Beh, oggi un po' meglio, dai, meglio di ieri, insomma, il mal di gola ce l'ho poco, c'è, ma c'è, poi raffreddore, così, dai. Ma ieri male, troppo male. È fatto bene che non sei uscito. Ma oggi stasera c'è freddo, Gio Maria, non c'avevo le forze ieri, proprio zero, no, ui. Non c'avevo le forze, ero senza forze. Mi sono cuccato e buh. Mi sono svegliato ieri alle 10, mi sono alzato, ho mangiato qualcosina, giusto per avere qualcosa nello stomaco, mi sono avuto la cuccato. Adesso è stato bene, meglio così allora. Hai fatto bene che non sei uscito. No, ma non faceva Gio Maria, ui, troppo a terra. E Gandulo si sente male, certo. È chiaro che... quando si sente male bisogna rimanere in caldo, tranquillo, perché sennò da qui aggrava di più. Certo. Beh, in effetti così, quando uno sta male non è che serve cercare anche di stare bene, stare a casa e via. Caldo, purtroppo le temperature, noi non siamo abituati al freddo, Giovanni. A che appena va un freddo, boh, siamo buttiti. Noi siamo come quelli che in continente sono a meno 5, a meno 6, dove sono a meno 10, capito? Ma anche all'estero, ecco. Vabbè, dai. Mi sono riservato un po', sennò guai. No, mal di gola poi è brutto. No, sai, non so se l'hai mai avuto, ma penso di sì che mangi male, mangi male. Comunque, tranquilla allora, meglio così che ti senti più bene. Da, passa il mal di gola, piano piano. Quindi c'è qualche cosa magari a fare i cagarismi. Oh, io quando ho mal di gola prendo l'acqua vitta e faccio varie gagarismi, sai che me lo calma, Beh, certo, lo so, no, io ho lo spray, ho tanto un verde. No, diciamo che già mi è calmato, no, ce l'ho ancora un po', quello sì, un po' di raffreddore, e sono anche a mal di testa. Il brutto di ieri, Gio Maria, è mal di pancia, mamma, manco ai cani qua, perché sui calcoli, no, non si mettono in moto quelli, io ce ne ho scampi liberi. Un macello quando è così, quando è così è un macello veramente, però adesso sei tranquillo, meglio così vai. Non ho sentito, è bello oggi, tutto il giorno, boh, chissà cosa è combinente, cazzo. Gio Maria, se l'hanno fatto di dinà. A noi pensa, lascia perdere. Cazzo, così dico. È proprio diceva sì. Cazzo. Non fa più pensamenti, sicché è sempre il turni alla parte all'altra. E vabbè. Abbia da ed allora. tasca c'ha i soldi. Noi non abbiamo e siamo mari. E soprattutto, ma sai, c'è qualcuno che vuole entrare e però non arriva qua. Boh, vedi un po'. Ah, Geppi, sta male, forse lo squilla a vedere cosa sta combinando, là. E cos'è? Dormita, Luca.